La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 63. Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati. L'articolo 63 disciplina l'elezione del Presidente della Camera e del Senato e al secondo comma prevede la modalità di lavoro del Parlamento in seduta comune. In pieno ossequio al principio di autonomia parlamentare e di sovranità parlamentare, viene riservato a ciascuna Camera, quindi sia alla Camera sia al Senato, il potere di eleggere al suo interno il Presidente. Questa è una precisazione storica molto importante, in quanto nel sistema dello Statuto Albertino il Presidente del Senato e i vicepresidenti erano invece nominati dal Re. Per cui nel sistema repubblicano, nel sistema della Repubblica parlamentare, abbiamo invece la piena garanzia dell'autonomia parlamentare che si sceglie il Presidente. È anche interessante notare come Camera e Senato abbiano una disciplina diversa di elezione. Alla Camera bisogna raggiungere comunque la maggioranza assoluta dei componenti e quindi si può andare avanti ad oltranza a votare per individuare un presidente. Al Senato invece, dopo la terza seduta, si va al ballottaggio lo stesso giorno. Sono stati i regolamenti parlamentari a stabilire questa precisazione. Il punto è rilevante in quanto, come sappiamo, il Presidente del Senato è anche supplente del Presidente della Repubblica. Quindi, nella sua qualità di supplente, deve essere nominato al più presto possibile. Va anche rilevato per curiosità come nella storia repubblicana ai presidenti di assemblea sono poi stati affidati per legge e per regolamento parlamentare tutta una serie di poteri importanti, non solo di funzionamento delle Camere, ma anche poteri di nomina. Ad esempio, per ricordarlo, sono i due presidenti delle Camere che eleggono i membri esterni del Consiglio della Magistratura Militare, che nominano i membri della Commissione di Garanzia dello Sciopero e ancora i commissari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, più noti come antitrust. Il secondo comma dell'articolo 63 riguarda invece il funzionamento del Parlamento in seduta comune. Sappiamo che le due Camere possono in via eccezionale e straordinaria riunirsi assieme, lavorare assieme per funzioni assegnate dalla Costituzione. La più importante e la più nota è l'elezione del Presidente della Repubblica, o meglio, elezione e anche giuramento. E lì abbiamo anche l'integrazione dei membri regionali. Poi abbiamo, sempre in seduta comune, alcune funzioni di nomina, soprattutto quelle dei giudici costituzionali. La Costituzione precisa che il Parlamento in seduta comune lavora con le regole della Camera dei Deputati. Infatti, la Presidenza spetta al Presidente della Camera e si applicano per quanto compatibili i suoi regolamenti.